Pensiamo che oggi per rappresentare un'alternativa realmente credibile sia di assolutamente essere in rottura con tutti quei partiti che hanno portato oggi allo smantellamento sociale, alla disuguaglianza, allo sfruttamento che vediamo tutti i giorni. Non c'è assolutamente nessun punto di congiunzione con quello che è il centro-sinistra, con quello che è il Partito Democratico e quello che è il Movimento 5 Stelle. Hai detto una cosa molto interessante in conferenza stampa, hai detto basta con la narrazione emergenziale durante le campagne delle elezioni. Perché? Perché sempre a ridosso delle elezioni i politici si ricordano di quelli che sono i problemi reali. Allora creano dell'emergenza su fatti specifici per poi regalare qualche spicciolo passandolo come milioni e milioni, quando poi sappiamo che all'interno di un bilancio generale i soldi che poi vengono sbandierati sono briciole. Invece noi crediamo che ci sia bisogno per cambiare realmente le cose di fare una pianificazione, avere una progettualità di lungo periodo che sappia cogliere quelle che sono le radici dei problemi reali, quindi non creare dell'emergenza ogni volta su quelle che sono delle situazioni contingenti per raccattare dei voti a ridosso delle elezioni. Tu sei stata in Rojava, in questi momenti stiamo chiaramente tutti seguendo le vicende in quella zona. Che cosa dovrebbe fare il governo in questo momento, secondo te? Sicuramente interrompere tutti gli accordi che ha con la Turchia, mettere in discussione quello che è la NATO, cosa che non sta assolutamente facendo, ma di facciata prova a dire che farà qualche ritocco agli accordi già esistenti e non ne farà degli nuovi, ma noi invece sappiamo che ci vorrebbe una presa di posizione chiara e determinata che non possono fare perché rappresentano gli stessi interessi all'interno dei mercati e dei poteri forti. Vogliamo dire due parole sul vostro programma ambiente, servizio? Sì, brevemente noi abbiamo deciso di porre delle rivendicazioni concrete sui tre temi principali, quelli del lavoro, dell'ambiente e dei servizi. Sul lavoro chiediamo il salario minimo di 9 euro l'ora per tutti gli enti, le imprese, le cooperative che vogliono partecipare a degli appalti regionali, per mettere in discussione lo smantellamento del welfare pubblico, per mettere in discussione gli elementi di privatizzazione e esternalizzazione dei servizi già presenti, che purtroppo sono già elementi già presenti all'interno della nostra regione, del nostro paese. E sull'ambiente chiediamo l'abolizione della legge regionale sull'urbanistica perché produce solamente speculazione edilizia e consumo di suolo. Siamo contro le grandi opere inutili e siamo invece a favore di quelle opere che danno utili realmente ai cittadini per un trasporto popolare e razionale, per un'edilizia residenziale pubblica realmente efficace, per mettere a riqualificazione quegli spazi già esistenti e non produrre nuova cementificazione. Sui servizi noi siamo contrari all'autonomia differenziata perché è un processo di un tassello nella smantellazione dei servizi pubblici e un processo che va solamente ad alimentare le disuguaglianze all'interno della regione e fuori dalla regione, creare una competizione tossica tra regioni e tra persone. Tu sei una lavoratrice precaria, come molti sono precari all'interno del vostro partito. Intenderai rappresentare, immagino, anche tutti i nuovi lavori precari, per esempio penso ai diritti dei riders. Certo, quello che vogliamo mettere noi in campo è appunto i diritti e i bisogni di tutti quelli esclusi dalla politica, quindi chiaramente parliamo del lavoro nero, del lavoro grigio, del lavoro precario e quando parliamo di lavoro non parliamo solamente in termini di occupazione e disoccupazione e nonostante il problema della disoccupazione sia un problema enorme in questo paese e nessuno sta facendo niente per cambiare le cose, quello che vogliamo mettere in piedi è anche un'idea diversa di lavoro e qui l'importanza di un salario minimo, perché non è sufficiente essere occupati, ma bisogna capire come. La qualità del lavoro è un elemento che deve tornare al centro del dibattito politico.